La soluzione del quiz, ve lo ricordate? Abbiamo un uovo dentro un pentolino con l'acqua, vogliamo farlo sodo, abbiamo anche una piccola fiamma ossidrica che spariamo sull'acqua e ci domandiamo che cosa succede, l'uovo cuoce più velocemente perché c'è molta più temperatura, oppure non cuoce, oppure diventa gas il suo contenuto? Bene, allora state attenti, cosa genera un aumento forte di temperatura dell'acqua, che effetto produce? Che questa, l'acqua, evapora più rapidamente, cioè passa allo stato gassoso, sarà il gas ad avere una temperatura elevata, ma in aria, nella pentola, l'acqua sarà sempre a 100 gradi. Anzi, se ci pensate bene, la fiamma ossidrica, se questa fa evaporare in 40 secondi, mettiamo, tutta l'acqua, e l'uovo non ha alcuna possibilità di diventare sodo, perché non ha passato un tempo sufficiente in acqua bollente. Quindi la risposta giusta è che non cuoce.